Attenzione cane leggista. Chi è? Controllo? Certo, e chi sei? Un tuo compaesano di qua. Ciao Claudio, buonasera. Ciao, sto provando una baracchetta piccola. Non guardarci quel pieno, perfetto. Oh, incredibile, eppure così. Perché? Qual è il problema? È tutto malandato, è un baracchino vecchio che era fermo, ogni tanto fa un sacco di rumori. Oh, il segnale è perfetto, si a 9, la radio è bellissima, chiara, si sente che non sta usando il microfono amplificato, però è chiara, bella, perfetta. Vabbè, tu dove sei, a casa? Sì, a casa. Allora, per arrivarti 9 non è che arrivo molto. Dovremmo arrivare di più. Ma c'è un baracchinetto, stava uscendo con 4 5 watt. 5 watt. Allora va bene, va benissimo, si all'ombra, è pieno. Andate allora. Non riesco a controllare le stazionarie perché non c'è rotto. Sembra che non se ne spiano. Ah, ma va bene, va benissimo. Alla grande, ti ripeto, un'azione bella, liscia, chiarissima. Prova a fare un passaggio in AM, in FM. Prova. Vabbè, è un baracco della mutua. Diciamo, vabbè, però vai. No, siccome che è omologato, no? Allora... cerco di rappezzarlo un po', volevo metterlo in macchina. Tu sei col K? Sì, non sono quello. Non ce l'hai più il Galaxy? No, l'ho venduto. Vabbè, se ti trovi meglio con questo. Qualche omologato tu rappezzerai, quindi sei a posto. Sì, no, io sono a posto sul camper. Addirittura ti ho detto che il camper ha... e mi impianto ci guida a casa. Ma lo sapevo, andava sulla cappotta, sulla cappotta. Quindi c'era già bello che è piazzato lì, non da manco fastidio. Allora perfetto, esce anche bene. Cioè io a Porto Torres, dalla casa cantoniera, dalla casa cantoniera di Porto Torres a Sassari, Santiago 8. È ottimo, vuol dire che fa un'ottima antenna. L'antenna l'ho cambiata io. L'antenna l'ho cambiata io perché l'originale è bassa, è 30 cm di antenna e non è andato da nessuna parte. Ho messo quella alta e va bene. E io me la devo prendere adesso. La base magnetica ce l'ho, mi manca lo stilo. Lo vorrei comprato a Sassari. Cosa, il camper? L'antenna. L'avevo presa... Dove l'avevo presa? L'avevo presa da internet l'antenna. Sì, infatti, perché mi sembra che Fusara non ne ha per macchina. Sì, ha detto del 2001, Fusara. E quanto venga, non lo sai? Sulle 60, ma ti conviene comprare da internet? Vabbè, ma devi fare il conto, se più trasporto bisogna vedere se conviene. Ma vai, il trasporto non sta facendo pagare più nessuno. Perché se su internet la trovi 50 euro, metti che 10 euro di trasporto, tanto vale che la prendi qui, per dire, no? Vabbè, certo. Ma dimmi una cosa, ma dove è tuo figlio? Che figlio ha fatto? Sempre fuori al lavoro. Olbia. Ah, è fisso Olbia. Sì, non c'è più qua. Bene, è andato da qui. Già sta bene lì adesso. È quello più piccolo. E Gianluca lavora al porto, lo sai. Al porto. Ehi, a quando vuoi? Ah, ho capito, capito. Il più piccolo, per modo di dire, che avrà quasi la tua età, più o meno. Ah, forse io sono quanto Roberto. Roberto ne ha, guarda, sotto ne deve fare. E allora vedi quanto è me, io sono 53. Ecco, no, Gianluca è più piccolo, Gianluca ne ha 37. Si è cambiato la moto adesso, lo sai? Ma chi? Roberto? Ehi, prima c'aveva una specie di Kawasaki Ninja. Non quello sport, quello con i manubri un po' più alti, non so che modello sia. E se l'ha versato, ne ha preso un altro, ha preso tipo un enduro di quelli grandi, sempre Kawasaki. Enduro? Kawasaki enduro? Che moto ci ha preso? Può assomigliare un po' a quei BMW. A quei BMW che vengono quei tedeschi, sai, quelli GS1200, un tipo del genere, assomiglia a quello. Ah, ho capito il modello quale. A Kawasaki, però non mi viene, cioè, la moto, capito? Il modello non lo so nemmeno io, l'ho visto così una volta. Uno di quelli perché a lui gli piace viaggiare, quindi è più comoda quella e meno cattiva, soprattutto perché l'altra era molto cattiva. Questa è più alla mano, dai. Ma la moglie ci va in moto, sì, le piace. Non so se lo sai, ma non c'è più. Non c'è più con la moglie. Ah, pardon, non lo sapevo, poi io sono rimasto indietro. Sì, già un po', saranno già 3 anni e più. Ah, vabbè. Niente, no, vabbè. Sì, prima mi ricordo avevo un Naked, però. Aspetta, che Naked era? Era nero. Una moto a strada, tutta carena, in nera. Chihuahua. Ciao, Claudio. No, non è Naked, è tipo... Oh sì, c'hai ragione, tipo Naked, però sportiva, molto cattiva. Mi sembra che aveva qualche 170 cavalli, era cattivissima. Riuscivo a tirarla io così a malapena. E non era per lui, era troppo cattiva quella moto. Io già la ricordo, aveva un Naked nero. Forse aveva il coso, lo Z1000, una cosa del genere. Adesso non mi ricordo, l'ho visto qualche volta a lungo mai, non mi ricordo proprio quale fosse. Forse proprio lo Z1000 o il 750, ma non lo ricordo. Ciao, Chihuahua. Ciao, Chihuahua. Ciao anche a Claudio, buonasera. Arriva di freddo a Porto Torrece. Ma non lo so, perché non ho levato il naso fuori di casa. Ma non so se c'è freschetto, non so se la mia zona che c'è freddo o se in tutta la tassa se è Porto Torrece, ma la temperatura è molto bassa. Stamattina viene 5 gradi, sono uscito a Rinovi, almeno per il mattino cazzo c'erano 5 gradi. Avanti qua. Aspetta, non sta funzionando lo smitter. Mi stavi arrivando Santiago 1, ha giudito a Poissy. Come ti sto arrivando con questo qua? Bene, quasi 9, radio 5. 5 watt scarsi, è un baracchinetto che ho recuperato, è un Mobicom MP40. Molto bella, una bellissima radio quella, funzionante, il Mobicom l'ho avuto anch'io, molto meglio della LAN 48. Molto bello, funziona bene, ottima radio, 5 perfetta, molto bella, sì, segnale quasi 9, 8 abbondante, però c'hai 5 watt, quindi sono il tuo segnale quasi 9 più 10 qua. Vai magnificamente bene, andiamo avanti, oggi. Oh, yeah. cosa mi racconti qua? C'è un re, cosa mi racconti, Chihuahua? Nulla, già ti racconto, G. Sono il patrantante, che noi siamo a casa, perché io non sono stato bene, mia figlia ne sta uscendo da questa cacchio di influenza maledetta. Quindi siamo un po' rinchiusi a casa. Stamattina è una bella giornata, mi sono messo a fare qualche cosetta al giardino. Sono uscito verso le 9, sono andato a Serra Secca lì al bar a prendermi un caffè, sigarette, un piattino al giornale, poi mi sono rientrato a casa, neanche un'oretta, alle 10 ero già a casa. Mi sono messo a fare qualcosa. Dopo pranzo mi riposo sempre, divanetto, TV, adesso ho acceso la radio e ho sentito voi. Questa è la giornata di oggi. Io non posso uscire. Non posso uscire qua perché non mi sono fidato, me lo sono fatto più approfondito. Perché i sintomi ho quelli. Penso sono positivo, diciamo, è inutile stare lì a girare attorno. Mi sono fidato quello della farmacia, sono andato e mi sono fatto il tampone, come si chiama, quello antigenico. È risultato positivo. Molecolare. Sì, oggi, ma te l'ho detto. Te l'ho detto perché ormai l'esperienza l'abbiamo già vissuta. E quindi, capito? Quelli della farmacia non sono attendibili. Però i sintomi sono quelli, oramai ci pizzica così, io lo stesso, i sintomi erano quelli e non venuto da là, mia figlia i sintomi erano quelli, nonostante i vaccini l'ha fatto ed è risultata positiva, quindi hai fatto bene, ha fatto il molecolare che è più attendibile, quindi adesso stai qualche giorno un po' a riposo, capito, e via, vedrai che già passa, mia figlia è già in fase di ripresa, piano piano, comunque ci vuole un po' di tempo, avanti, Cla. Io l'ho passato l'anno scorso, poi avevo fatto il vaccino, pare sì, adesso tutto è stato abbastanza bene, sto bene, no? Dovrò fare l'ultima adesso a febbraio, il 2 febbraio c'è l'appuntamento per fare la testa. Comunque stamattina ho sentito una cosa brutta, una bambinetta che era in scuola con mio nipote che c'ha il Covid. Porco cane, ragazzi, 6 anni già col Covid. Non esimo più. Così è, vai oggi. Vabbè, io sono fortunato che non sono mai stato contro il vaccino, mi sono subito vaccinato e mi ha preso in forma, diciamo, leggera. Niente di preoccupante, insomma. Però, come ho detto, dice anche ai bambini attacca, anche ai bambini non ce n'è. Dove trova terra fertile si attacca, non ce n'è qua. Sì, oggi è così, ma anche mia figlia l'ha presa in forma leggera, anche io, niente di che. Però non è come la prima serie che abbiamo subito, questa è una variante, va di sintomi influenzali, non prende i polmoni, però cazzo di distruggi, ti va di modo, tutta durore, il raffreddore, insomma è un'influenza un po' balorda, però è chiamata Covid, non vanno da là. Quindi sì, è una variante del Covid, questo Omicron, quindi bisogna starci attenti e bisogna curarsi subito, tutto qua. Se trova un rebolo, il gatto lo ingessa subito. Fortunatamente tu già sei giovane, è bello cuputo, come si dice, bello grosso, nel senso che già ne hai anticorpi lavorando al posto che lavori. Quindi va bene così, però bisogna stare sempre attenti. Io esco perché sono negativo, però sto molto attento, proprio tutto da pad, mascherina, FFP2, non vado da nessuna parte, entro esco proprio al bar, però se non c'è nessuno entro esco, sigarettina e a casa, non ne voto assembramento a casa. casa mia non c'è venuto nessuno quest'anno, per niente, non voglio nessuno, nulla. Vai qua. Sta diventando un problema, per quelli che non si capisce bene se è per colpa di quelli che non si sono vaccinati o che cosa, o per questa variante, non se ne piglia compreso. Fatto sta che quest'anno doveva essere tutto a posto, invece va a dire che cammina, ripassiamo in arancione, cammina, qua è... stanno aumentando i contagi, anche qui a Porotone stanno aumentando, non è più come prima, perché non è più come prima, però non c'è da stare allegri, bisogna stare attenti quando si esce, tenere le distanze eccetera eccetera, bisogna stare attenti, quello sì. E per il lavoro specialmente diventerà un casino. E tu Eugenio, come nel tuo lavoro lì deve essere un macello, deve essere. Da noi diciamo che è un problema, perché c'è gente che sbarca senza mascherina, nonostante sappia la situazione, vengono a chiederti informazioni, si avvicinano più del dovuto, tutti allontani, e loro continuano a inseguirti per chiederti informazioni, insomma è un po' un problema. C'è ancora gente che gira senza mascherina, e vabbè, è cosa... qua c'è qualcosa che puoi fare, boh, prima o poi passerà, la speranza è, come si dice, è sempre l'ultima a morire. Ma infatti i contagi stanno avvenendo per quello, che non perché la gente non è vaccinata eccetera, purtroppo vabbè, no vax ci sono, però si stanno tenendo a distanza, capito, perché non li avvicina nessuno. Quando non è vaccinato ti allontani, avviati, cioè non ti fanno entrare da nessuna parte, oggi con le nuove leggi, nuove regole, eccetera. Il problema è, come ha detto Eugenio, che sta attaccando anche i bambini, perché i bambini non sanno la protezione dei grandi. Un bambino di 6 anni, cazzo, gli metti la mascherina e lo porti in giro, non respira più. Cioè, capito, sta attaccando i bambini piccoli, tramite i genitori, sta attaccando persone nuovamente anziane, ma nonostante ci siano i vaccini, mia figlia c'è il vaccino, Eugenio c'è il vaccino, cioè è una variante che va dei sintomi influenzali, però è pericolosa come sempre. Quindi ci vuole la massima attenzione, la massima descrizione, la massima riservatezza, insomma ci vuole un po' di tutto. È così, bisogna stare molto attenti. Così è. Claudio, ho visto che la signora Isolli è diventata, come si dice, socio onoraria nella sezione di Porotorre, ma non modula più, poverina, ormai non la vedo più, prima tirava il carrettino della spesa in salita, non l'ho più vista, deve essere che non sta allettata, ma chi lo sa, non lo so, la verità, se mi capita chiedo ad Antonio, che lui è molto, molto amico di Anna, di Mali Magei, bravissima radioamatore, bravissima veramente, molto brava, girato il mondo facendo collegamenti, sia lei che il marito, però molto bravo in telegrafia, non lo so, se mi capita chiedo ad Antonio, presidente, ti provo a vedere che figlio ha fatto, se è a casa, se si è allettata, se siede a carrozzelle, non lo so. Servissimo, io a Porto-Torres è già da un bel po' che non scendo. Se non scendo a Porto-Torres è sempre per questo problema del Covid, non ci siamo più visti neanche con la mia famiglia, eccetera, ci sentiamo e basta. Però qualche volta l'ho vista anch'io, scendendo da Suda, da via Principe di Piemonte, in quella zona lì, vicino a casa di mia madre. E vabbè, è così. Avanti. Oggi sto parlando, chi è questa qua? È la moglie del presidente dell'area di Porto Torres, che è morto, l'ex presidente, lei la segretaria. Cos'è? Ah, ho capito, Sì, lì via Principe di Piemonte abitavano angolo, cioè via Mcicola, via angolo via Principe di Piemonte, col palazzo dove c'era la pasticceria, non so se c'è ancora, non mi ricordo adesso cosa c'era, forse una pasticceria sotto. Non aveva niente di che, aveva due o tre filari e basta, l'antenna appunto per i 2 metri e basta. Ho capito quale. C'è ancora l'antenna contro i radialini piccoli? Penso di sì, se non l'hanno tolta penso di sì, ma chi è che la toglieva? Le radio penso non ne abbia più. Forse qualche cosettina, ma adesso l'ha venduto tutto quando è morto il marito. Che aveva un bel corredo, un bel corredo ci aveva. Comunque è quel palazzone grosso sopra la Lido, dietro la Lido, quello alto. Sì, lui aveva i dipoli, Claudio, aveva i dipoli e era molto bravo nel telegrafia, c'aveva il tasso elettronico e aveva quasi completato l'honor roll. Ce l'aveva fatta, gli mancava qualche paese, poi ce l'aveva fatta, era bravissimo, era caspita. Che ha imparato da lui, aveva imparato da lui piano piano, che aveva insegnato. E così. E tu Eugenio, te la pigli la patente? No, non ne ho voluto studiare, ho studiato troppo con le patenti, basta. Se c'è che bisogno Eugenio, intanto va bene così. Piuttosto tu penso che quest'anno ti metterai sotto qua, o no? Oh, penso di sì, penso. Più sì che no, perché quest'anno forse smetto di andare via Ticino. Allora sì, senz'altro sì. Ma l'avrei già avuta 40.000 volte, credo, non mi sono mai deciso. E vabbè, no, per una cosa o per l'altra ho sempre rinviato, e ci sono passati un po' di anni. Ah, niente di strano che quest'anno al massimo inizio dell'anno prossimo sarò anch'io dalla famiglia dei più. E vabbè, mi assento un attimino, ritorno su. Ehi, fai. Anch'io oggi dai, stacco 10 minuti e devo controllare un paio di cosette, poi già rientro, già sono qua, ok? Ok, sono qua, adatto. Ehi, ricordati quel messaggio che ti ho mandato, quando mi chiami e già ti vengo incontro per non farti fare un bel di strada. Magari sotto la casa vecchia che la conosci lì. Eccetera, già mai capito, quando vuoi non avere problemi. Poi claro, c'è problema, come mi dico da questa situazione, io voglio provare, ok? Certo, è fantastico, certo, solo voi lo provi, non ti preoccupare. Beh, mi allontano un attimino e già sono qua, comunque già ok. Va bene, siamo qua, dopo più tardi. Andiamo, ciao. Così ardentemente. Ma perché sta facendo così a schifo? La lavorazione non è la tua solita, cosa hai toccato? Niente, adesso? Fatto oggi più lunghi. Va bene, dimmi, Claudio è qua, mi si è aspettato un secondino. Ho un agente di custodia, buonasera. Un secondino, ciao già. Ciao genio. Aspetta, allora aspetto che arrivi, che ti è aspettato, dai. Tutto bene, Eugenio, buonasera Gianni, Mario Porto Torres. Tutto bene, Eugenio, tutto a posto? Tutto a posto. Tutto bene. La mia banda zona rock, quella di era. Ea, c'è capito. È già lo credo. Buongiorno. Ehi, Eugenio, ciao Ale, ciao Mario, ben sentito, ben ascoltato, buonasera anche a te, dai. Aio, delizia, sì, aio, faccio una sola, dai. Ma che sono ultimo, ma faccia stare, non sono capace a suonare chi passa. Avanti Alessio, buonasera. Sì, saluto a tutti, ben sentiti. Gabari Rock. Buonasera a todos. Buonasera anche a lei. È all'ombra dell'ultimo sole. Come va, come va? Beh, perché c'è un zio da Tannacca sotto? No, è la ventola, non è alternata. Appo comprende, già va bene. Aspetta, cerco di eliminarla questa alternata, vediamo un po'. È una ventola la ventola del coso che sta girando. Adesso ho meglio va. Ciao Gianni, buonasera. No, c'è un ronzio d'alternata sotto, non è rumore di ventolina, già. Avanti Porto Torres. Ma io mi sento piano però, Gianni, mi sento pienissimo in mezzo al corrente, mannaggia, mi sta alzando io. Guarda, sono difficoltà pazzesche. Dai, rimango un attimo in ascolto, no, volevo sentire solo Claudio perché so che aveva montato Bruno Giorgio. Vabbè, partito. Volevo sapere come ascoltarlo, cioè come usciva. Va bene, Eugenio, dai, rimango qua in ascolto, anche perché sto facendo una cosa su internet e mi ha ordinato un altro di Barettino, mannaggia, spero che mi arrivi. E spero che funzioni. Prendo la Nico di 10, Eugenio. Volevo prendere la chiave di tu, ma nada, quindi mi sono buttato qui. Bello, anche quello già, il Nico già è un bel apparato. Un altro bel apparato. Solamente che è alimentato, però un bel apparato, è completo anche. Sì, in effetti c'è un po' di cose. Adesso vediamo, lo prendiamo quando arriva. Giusto così di riserva, non basta, se non prendo più, ma non mi viene. Giusto perché ho venduto l'altro e adesso così. Ma se no, non spendevo più, troppi soldi. Porca vacca. Riprendi là, Gianni, io però ti sento piano, rimani in ascolto, aspetta che arrivi Claudio, poi dopo magari prendo un paio di passaggi. Avanti pure già. Eia, sì Mario, io ti ascolto, riesco a tirarti fuori, dai, c'è un po' di disturbo, fruscio di disturbo, dai. Fruscio di disturbo, o di disturbo di fruscio, vabbè, ci siamo capiti. Santiago 5, la radio 3-4, dai, variabile. Non so se ma forse ho toccato qualcosa qua nel microfono, come mi ascolti adesso? È sempre uguale, ma proprio se tu sei in mezzo al QRM, Gianni, proprio ti sento, devo stare con l'orecchio appoggiata alla radio. Comunque sì, faccio fatica a tirarti fuori. Dai, rimango qua in ascolto. Avanti pure. Bene, c'era Gianni e Alessio. Doppio, ci sei ancora? Tu vuoi spendere i soldi per l'antenna, non per il baracchino, Mario. Non posso, io ho anche l'antenna precaria, Eugenio. Allora, per fare una cosa vada bene, aspetta come va detta, perché non esce niente. E siccome, allora, qui c'era un impianto del palo della televisione, sostanzialmente. Allora, io cosa ho fatto? Tenendo le staffe del palo della televisione, cioè l'antenna della televisione non è una roba enorme, cioè perlomeno non pesa neanche, ho montato l'antenna, cioè io ci mettevo sopra una 5 stati, un'antenna seria, la Gordo, e te l'avresti portata di là, e comunque te l'avresti comprato durante la guerra. La mia l'ho presa 3 kg, non pesa niente. E guarda che io tu ce l'ho, ce l'ho 5 tavi su, quella della figlio senza radiali, c'è un interrato smontato e tutto. Piazziamo tutto, piazziamo tutto, e poi quando sarà il momento smontiamo tutto. No, no, ma tu sei troppo vecchio, troia. Ma ci sei da te le cose al troppo vecchio, io... ma io non le voglio, non hai capito. C'è uno mandrone, che è. Vabbè, Mi prendi doppio no, il profeta Isaia. Eia, c'era... ha fatto l'entrata Gianni, c'era anche Alessio. Allora, vieni avanti. Io sono qua, stavo facendo degli scontri. Perché ho messo due antenne, una direttiva e una verticale. E... devo provarla, cazzi. Adesso ha migliorato, beh, in VHF. Come l'ho toccata, invece no, tabù, non so se funziona, se non so, sta funzionando, tabù, devo continuare. Bene, meda, ascolta Alessio, come mi ascolti, com'è la radio, è buona oppure è distorta? No, no, buona, bella perficcata, a voglia. Gianni tu profeta, ti faccio pagare lo smitter, 9,50 mi stai arrivando, hai capito bello bene? Oh, yeah. Natalino, non ci posso far niente, buonasera, ben entrato, non ci posso far niente, dai, mettigli il freno a mano, mettigli l'ABS. C'è entrato uno stecchino, se no va oltre. Anche tu non scherzi, dai, siamo un tiro di schioppo, come si dice. E per quello te lo volevo far pagare lo smitter. Va bene, dai, appena lo busco, così ne prendo uno e te lo tiri di scorta, dai. Cazzo, io ti cominci a comprare uno smitter di litro. Ehi, vabbè, dai. Oia. Di certo non sarò io a imballartelo, dai, lo smitter. Aspetta, che ti mando la fotografia, così almeno me lo compri uguale. Che paletto resti, una festa ci sarà, e cantando le canzoni, che burrasca calmerà. Allora te ne scende l'aria. Oia. Adesso mi tocca pagare pure gli smitter. Boh, c'è una radiolina da nulla e mi tocca pagare gli smitter adesso. Boh. Allora, vabbè, doppio room è entrato, c'aveva il rosio e se n'è andato. Avanti, genio! Se dimmi, non lo fai, dimmi tu, sono in oga. No, ma se l'hai ascoltato quello che ti ho detto, tu a me non mi l'hai mai detta. Guarda, io non so di cosa stai parlando, boh. Mamma mia, ti ho detto, ascolta, c'è chi realizza. Ma io ti devo dire tutto, cacaio. Ancora Ghisio, ma cosa fa? Te le vendite, cosa fa Ghisio? Materassi vende, ma li vende bene. Questo materassi. Ma sono ammigliato, ma devo fare il corso della mastrotta. Gianni, guarda il telefono. Dove me l'hai mandato, su WhatsApp o su Telegram? No, io sono agricolo, diciamo, sulla WhatsApp. Va bene, adesso controllo, dai. È dritto però, mi. Non dire nulla, Falco, Etero di te. Cosa vuoi, Cosa vuoi? Sai che ci vuole? Quando c'è la motozappa. Coglione! Luca, amico mio! Buonasera! Ciao, amico mio di Porto Torres! Beh, Popucu! Ciao Luca, saluto di Bessinfritto. E allora, com'è? Come va? È abbastanza bene, ho avuto staccare tutto, ma per 2 o 3 giorni. Perché sono sotto al tetto, veloce, ho pestato l'antenna, cazzo. Ho dovuto correggere il cazzo la mia. Perché l'ho fatto veloce, l'ho fatto. Oggi l'ho messa dritta. Il palo, dritto, bello, tetto, dritto. Perfetto, Ci ho messo l'Exi 500. Vabbè. Ma il segnale della monachino sei no, per i più forti il primo. Cosa hai messo tu? Cos'è che hai messo? Che non ti ho sentito bene. Drogato. Exi 500 ci ho messo, quella VEU ci ho piazzato. Più avanti della direttiva, ho fatto i buchi. con i buchi pure, buco. Dai, come lo chiama? La 300, no, la X30. La X30 è quella piccola. La 300 piazzato. Ma ce l'avevo io. Sono basso perché sono con la... non solo con Saturnecco, sto usando il 2009, Saturnecco l'ho conservato, capito? Cos'era, gli ha bruciato? No, l'ho bruciato, sta tranquillo che ce l'ho conservato. Devo fare pulizia qua in camera, cazzo, ce n'ho poca roba da buttare, quindi per non rompermi le palle qua se lo metto in terra me lo piscia il cane, capito la parete? Non posso appoggiare niente. E quindi adesso devo liberarmi la camera, tutta quella mondezza che c'ho, casse vecchie, stereo vecchi, roba del genere, c'ho quasi 15 T di cazzo di cavo elettrico, insieme ai cusi agli alimentatori lì. Adesso bisogna che li faccio fuori martedì prossimo, faccio un giro con Giovanna martedì e ci riporto lì in corso, in piazza dei Segni. E qua non ci fanno niente. Sono a casa piena di roba di elettronica, adesso la faccio tutta fuori, vabbè. Non me ne fate nulla, devo liberarmi la camera, la casa ce la faccio a stare così, ma il modezzaio pare. Bravo, bravo, fate una bella scrivania e rimetti in Galaxy che esci meglio di questo. Ciao, buonasera a tutti, ci sentiamo dopo. Guarda che sono uguali, mi non è cambi molto, guarda. Questo è il 2009, il mio originale, quello vecchio. Poi la Giovanna c'è con le 4.000, che escono bene tutti, grazie a Dio. Il Galaxy Aricchio di Romagna, nudo e crudo. Così tanto forte. È bella Antonella, col Galaxy esce veramente bene. Questa non è male, ma il Galaxy mi piace di più con la modulazione. Va bene, no, comunque sta tranquillo, già è... c'è la casa di Giovanna, l'ho sceso lì l'altro giorno. L'ho sceso, c'è anche con le 4.000. Ho detto metti tutto dentro l'armadio, ho detto il momento, ho detto che devo fare pulizia, perché no? Io non capisco più la fancura, sono dove c'è camminare la roba, gli ho detto. Mi sto costruendo un alimentatore anche, così mi sono fatto un po' di spazio per poter lavorare, cazzo, se no non riuscivo neanche a far nulla di qua. Va bene, va bene. Comunque non te l'hanno messa dritta qua, eh. Anche se tu l'hai vista storta che altri quei due giorni è su dritta. Un grigio di piombo, piovono lacrime di rame. Ah, seria, ci vuole, cazzo caro ti mando. No, non ci ho fatto caso io, Antonio, perché la verità non sono passato da lì. Ho fatto il giro dall'altra parte, direttamente alla piazza dei Segni. Va bene, dai, meglio così che messo tutto a posto. Dai, continuate tu e io già vi ascolto entro dopo. Via, d'accordo. Ok, ho dovuto fare solo qualche offerta perché c'è la Simona che... Vomitato lei, c'è capisce tu giù! C'ho paura! Ma fare il fuoco, cazzo, ho fatto cazzo, mezzo centimetro più spostato quello di sotto, ma va a fare culo, cazzo. Ho dovuto fare la correzione oggi. Ho messo una staffetta in più, adesso bello pettero il palo, stai tranquillo. E cazzo, ma prima Maria, faccia ma schifo solo l'anello, Antone, ma anche la X30 hai tu? La X30 l'ho regalata, ce l'avevo, c'avevo la X30, l'ho regalata e anche la Discona, l'ho regalata anche quella. Natali, devi cantare la prima. No, già ce l'ho una X30, non c'è problema, nuova l'ho comprata. I motivi ci aspetti, attenzione. Adesso non so se piazzare quella che c'è oppure quella della macchina al posto di quella che c'è. Perché c'ho quella della macchina, pure cosa mi dici che rella in alto? Guarda, io quella macchina la diamo che ce l'avevo il primo giorno che l'ho installata. Parlavo tranquillamente, l'ho provata con Claudio, la verità, e usciva benissimo, era attaccata appena appena, peggio della mandorla. esce da tutti i posti. Se metti da quella lì come una staffetta ben isolata, hai fatto 13, hai fatto. Se no ti cerco come si dice, uno degli attacchi tipo boomerang, però c'è il BL, hai capito? Poi gli saldi le 18, come si leva, li isoli bene, gli fai un bel lavoretto e ha voglia del rende. È per il ricevitore mi serve, affitto. Per ricevere mi serve quella della macchina, metto quella lì e così c'ho la X30 e quella della macchina. Ehi, ricevitore, vabbè. Non so, io l'antenna, la magnetica, gli ho messo l'antenna in gomma, quella in pratica UEU di un vecchio portatile, funziona benissimo, la sto usando un amico mio. C'è la pratica con la magnetica, il portatile PMR e in più al tubo 2001 che gli ho dato io. Quindi figurati. Lui sta usando tutti e due, almeno per parlare, anche perché lui, hai capito, non è che vuole un'antenna lunga lunga, che si veda, più fa vigilante, hai capito, se la mette lì in cappotta e parla quando esce benissimo, l'ho sentito l'altra volta, esce veramente bene. No, ma io la voglio mettere dove c'è il palo dell'antenna, quella della macchina, con la staffetta, capito? Volevo sapere se riceveva il ricevitore, mi serve. Ma anche altro riceve, anche trasmette la sola. Io ce l'ho qua, la diamo, capito? Figurati tu. La prodotta funziona benissimo. In casa è micidiale, anche in macchina c'è forte. No, io la devo mettere sul palo dell'antenna per togliere quella piccolina che ho, quella che avevo fatto io, e metto quella a 1,5 metri Diamond, quella che ho io. Buonasera Natali, non mi stai più salutando, cosa ti ha fatto? Buonasera, chi mi ha salutato? Sì, io sono Eugenio. Ciao Eugenio, basso, ti ascolto, capito? Finché non piazzo l'antenna come si deve, non c'è nulla da fare, là. Ciao, capito, Natalio, perché sta arrivando Santiago 5 qua. Natalio. Oi. Questo ti causa problemi, il porto Torres? C'ho problemi di ricezione con questa antenna, c'ho QRM alto. Se arrivi appena appena dopo il QRM, se non manco ti sento. Eugenio. Ehi, lui, dimmi tutto. A me Natalino non mi sente. Ho capito, no? Ho detto, Natalino a me non mi sente. No, che già ti sento io. Arrivi a Sant'Agudo, ma già ti sento. No, non tu, no, Natalino non mi sente. È possibile che ti senta. Natalino, non senti a Luca? Basso, basso, lo sento. C'ho problemi con questa antenna. C'ho l'antenna troppo bassa. Anche lui è bassissimo qua. Stivi arrivi più forti tu, dietro. E lui c'è. Ho capito, dice che ha problemi all'antenna, capito? Ha problemi all'antenna. Stavo dicendo, ma questo qua che ti crea problemi per l'antenna, è di Porto Torres, basta lì. Passa in SM e ti sento meglio. La presto io, vieni se la prendo, non c'è problema. Aspettate un attimo. Fermi un attimo. Sicuramente lo conoscerà. rientrato? Anch'io. Ho visto la radio, bella Nathalie, bella, complimenti. Che radio è? Lo puoi dire, Nathalie? Cosa, Eugè? Lo puoi dire che radio è? Non c'è il numero di telefono tuo, se no ti avrei mandato una fotografia. Lubrofè, oh, Iuia, è entrato Luca, scapuzzato. C'era Alessio, Gianni è sparito, boh. Oh, Iuia, Luca ci sei? A Luca lo sento terra a terra proprio, mai l'ho sentito così. Deve essere appeggiorato questa antenna, boh. Lui deve essere giù, però lo sento basso, basso, basso, basso a Luca. Mai l'ho sentito così. Deve essere più va, più si sta rompendo questa antenna. Oh, Gianni. Ehi, ciao Luca, buonasera, avanti. Io Natalia lo sento bassissimo, con l'alternato, lo sento malissimo. Strano, Malfredo, siamo più bassi. Il problema è suo, perché tu mi senti bene, mi confermi, mi senti bene. Una bombetta, lui, sì, sicuramente quell'antenna, con tutta l'acqua che ha preso, se ne sta andando proprio a... in ghisciurugu, quindi sicuramente è un problema suo, sicuro, sicuro, dai, l'ha detto anche lui, quindi no, no, tu arrivi a bomboletta qua, dai. Sì, è possibile dire, tu bene lo ascolti. E io ce l'ho qua vicino, mi arriva forte per forza. Ho capito, no, a me è proprio male, male, male. C'è un segnale 3, addirittura con QSB e alternata. Stevie arriva più forte che Eugenio, a Porto Torres. Dai, riprendi, se non ti rispondo perché ci stiamo, cioè mi sono cambiato e stiamo per uscire, dai. Ehi, bene meda, bene meda. Oh, yeah. Avanti, avanti genio. Sto dicendo, oggi mi arriva forte la saliva a me. Ma dopo il mistero delle onde in AM, il mistero dell'elettronica, oggi mi arriva veramente forte la saliva. Oh, yeah. Avrà la radio a Bagnomaria, la radio intendo a me, la bobina dell'antenna a Bagnomaria. Oh, yeah. Conviene magari non forzare troppo, non si sa mai che magari succeda qualcos'altro, dai. Sono basso basso, cosa forzi? Timo di bruciarlo, buru. Appunto per quello dico, ti conviene stare basso, se no ne risente qualcos'altro, dai. Oggi stavo dicendo la salita, mi arrivi più forte degli altri giorni. Cosa vuoi? Adesso sto usando il superstar perché temo di bruciarla. Già mi devono prestare una scala di 10 metri, comunque, non ti preoccupare, è l'abbiato l'antenna, a forza di Maragana. Poi facciamo subito, raffacci da prima, c'è prima da vittoria, vai, come si avvicina, senza fate la cosa, la mozzichini, scende giù dalla figlia. Non si fa vedere, se no l'antenna la Bibbia da Ravona, la Bibbia strada, non si va da Ciappaghi, a te lo puoi immaginare. Ma perché per piazza l'antenna devi passare a casa sua? E allora, ma io la tolgo lo stesso l'antenna, perché salgo all'altezza della sua finestra, con due scale, una alla base e una all'altra, manteniamo il dubbio e ne lo faremo ugualmente. Digli sa chi prea là, non me ne ha fatti nulla se si faccia. L'altra radiale non ha tirato come in TV. Fate va bene anche una Game Master, mi leggera. Veloce la piazzale, via. Ehi, ce l'ho già, è qua che ce ne sta arrivando. Che è pronta a piazzare. No, lo sapevo che ci avessi già. Va bene. Come cambia il tempo, aspetta il tempo buono, poi ti mandiati tranquillamente. Oh, lo bloffetta, e tu cosa ne pensi? Ti mandiati l'antennina più bella. Oh, yeah. Vediamo, dai, vediamo nei prossimi giorni. Sto aspettando una risposta da parte di un amico, che insomma... In base alla risposta che mi dà, se la risposta è positiva, forse riesco a prendermi questa antennina, questa antenna, dai. Così mi porta anche il palo, mettiamo il palo un po' più lungo e mettiamo questa questa antenna, dai. Ma lo sai cosa c'è in campagna? Gianni. Sono un'altra antenna. Aspetta, vi siete calpestati, dimmi Natalino. Ma cos'è la pagina in campagna? Cosa c'è? Una manta, ma cosa c'è? C'ho una manta da 5 che quando me ne sono andato c'aveva 2 mesi. Sopra un palo da 12 metri, 2 sezioni da 6 metri sono, di tubo d'acqua. Oh yeah. Vabbè, smontarla lì non fa, no? E perché non fa? Solo che bisogna salire sul tetto, togliere un bullone e se ne scende il palo. Capito? Gli avevo messo un bullone passante, gli avevo messo. E se ne scende ai tuoi piedi l'antenna. Poi basta mollare le staffe, bisogna 2 capi grossi, si rivede da su. Cazzo. Poi c'è un altro palo dove c'è una multibanda. Cazzo, io mangio poco antenne in campagna. Oh, yeah. No, io metto qualcosa di leggero. Ho visto una Sirio senza radiali e poi la Sigma Phenom, anche quella senza radiali, dai. Adesso aspetto questa buona notizia, poi carico la posta eBay e la prendiamo, dai. Una bella matassa di cavo nuovo. Adesso vediamo un po', io ho anche il palo da 4 metri qua, nuovo da mettere, da aggiungere a questo palo qua, così al manco risulta 4 metri più in alto l'antenna di come è adesso. Bene meda, vabbè, aspettare l'occasione propizia e si piazza tutto. Avanti genio! Io... Io un tubo da 6 metri ce l'ho già, bello. Mi vorrei un altro da 6 metri, ma poter aggiungere a quello che ho, che mi piace un tubo da 12 metri. E poi non vi ne banisco, poi ma farò la giocata, già va bene così, poi da là ci salire su a piazzare tutto, poi. Ascolta, Jay, sto usando il Jopix, non il l'Uranus, come mi dice il segnale, com'è? Grazie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, canale 10, 27, 075, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5. Ma 5 fisso, stabile o poi a qualche picco positivo? Leggeri picchi positivi. Bene meda, dai, sono quasi 9 watt scarsi, dai, a strumento, quindi già va bene. Sì, ho voglia, va benissimo. E io come ti sto arrivando col Superstar 3009, EUG? 2 a picchi fino a 3. Brecco, non mi arrivavi più forte. E lo so, ma purtroppo questa antenna sta andando a farsi forte. C'è stato un break, fatelo venire avanti. Io sono il più piccolino di tutti. Ciao Geno, ciao Natalino, ciao Gianni e poi non so se ci sia qualche un altro. Facciamo venire avanti prima Eugenio, l'amico carissimo e portatore che è il più lontano di tutti. Dai, vai Eugenio. Tutti mi vogliono bene. Ciao Robè, buonasera, ben sentito. Allora, come va? Va bene, un poco stracco sono, però già si va avanti, dai. Vediamo il profeta, il nostro predicatore preferito. Avanti Gianni. Ciao Roberto, buonasera, ben entrato. Sì, dai, stiamo facendo conversazione, dai. Due, tre cassate così al volo, no, vabbè, scherzo. E niente, dai, sempre la solita, il solito tran-tran, niente di eccezionale, dai. Natale, passo al Capodanno, a te il mic. Di Capodanno, c'ho l'antenna tutta capottata, chissà cosa è successo. Comunque Gianni, un profeta, cosa stai facendo tu? Stai andando troppo forte, sei quasi 9,25 abbondante. Il Jopix c'ho, quasi 9 watt sono. E niente, non c'ho altro. Stando alla grande, eri già forte prima, la radio è sempre bella. Adesso il poverino è diventato Natalino finché non si mette questa antenna. Ma l'hanno della buona in Natali questa antenna. Io oggi ho avuto una risposta e mi devono dare una scala a 10 metri, mi devono prestare, capito? Già la piazza, no problem. Stavo cercando di telefonare a un amico a darmi una mano. Ma nessuno conosce a cosa? Al Duomo di Sassari Natale. Al Duomo? Cioè, quella scala a me pare arriva a 15 metri con le ruote, l'hai mai vista che si scioglie? Ci sono tipo delle dei timoni di coso, di barche, di nave, di coso, di volante di nave, giri e le allunghi per salire sino al campanile. Non l'hai mai vista, anche a Santa Maria mi pare ne hanno una, l'hai mai vista che le mettono sempre quando vanno a cambiare la lampadina dentro la chiesa? E poi arrivi a 15 metri. No, non l'ho mai vista. Vabbè, no problem comunque. Adesso vediamo di piazzare l'antenna come si deve. Oh signore, cazzo, sono andato a fusare, manco capo c'hanno. Volevo la K155 e non ce n'è. Allora, io ho fatto un ordine l'altro giorno, ma avessi detto avremmo fatto l'ordine insieme, perché 50 metri di quel cavo messo ai paloni mi ha ordinato e poi altre cose. Avevamo fatto un unico ordine e avremmo fatto...